Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E cari amici di Runtime Radio, www.runtimeradio.it, 21:30, quasi puntuali come gli svizzeri, siamo tornati a questo nuovo episodio di Ludico Forum. Questa è una puntata particolare, parleremo di un tema che fino adesso forse non abbiamo mai trattato all'interno del nostro oramai decennale lavoro di podcast sui videogiochi. Però insomma, alla fine faceva anche un po' strano, perché poi è comunque un genere di giochi che a me piace tantissimo. Prima di anticiparvi, vi ricordo comunque che potete interagire con noi tramite il nostro gruppo Telegram Ludico Forum, o cercate Ludico Forum il gruppo anche su Facebook, oppure se volete dirette Runtime sempre su Telegram. Allora, andiamo a presentare i nostri ospiti. Abbiamo per la prima volta in questo canale, in questo podcast e su Runtime Radio, Marcello Cacace del canale YouTube Turn-Based Lovers. Attenzione. Ciao Simo, grazie mille dell'invito. Ciao, bello e benvenuto. Allora, come sapete, io ho sempre questo problema con la pronuncia inglese, mi viene l'ictus di solito, quindi insomma, fateci. Ma per quelli come me che sono ignoranti, basta che andate su YouTube e cercate Turn-Based Lovers, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitelo, perché è un bellissimo canale di cui adesso parleremo ovviamente, tutto dedicato ovviamente ai giochi a turni, dove la forza del canale non è tanto i semplici gameplay, che comunque ci sono, ma è quel lavoro di grande ricerca su i vari settori, i vari segmenti di questo genere di giochi, che vengono ovviamente portati sul canale, presentati come i 5 migliori, i 5 più promettenti, i 10 che arrivano quest'anno e via dicendo, insomma, quindi tutta quella serie di elenchi che mi hanno permesso di scoprire una marea di giochi di tutto ora a noi, insomma. Quindi benvenuto Marcello. Grazie. E poi dopo parliamo del canale. Diamo anche il benvenuto per la terza volta su Ludico Forum e Italian Podcast Network, ovviamente, a Leonardo Alawin Tonna. Ciao caro. Ciao Simo, ciao ragazzi, ciao a tutti. Piacerissimo ritornare su Ludico Forum come al solito, grazie dell'invito. Alawin, cercatelo su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella. Lui, sapete che in questo momento sta giocando a Kingdoms Come Deliverance, che ragazzi è un gioco che forse ne abbiamo un po' parlato, non tantissimo, ne abbiamo un po' parlato perché in realtà tra di noi l'hanno giocato in pochi, che è stato molto bisfrattato per problemi di bug, in effetti c'erano delle criticità chiaramente all'interno di questo gioco, però diciamo anche che è un gioco indipendente, immenso, vasto, e quindi se avete perdonato i bug ad Assassin's Creed non capisco perché insomma dovete prenderla con questo gioco che è meraviglioso, giusto Leo? Ma partiamo pure dal prezzo ragazzi, 15 euro, vedrete, fidatevi, prendetelo e basta raga, 15 euro vale la pena, assolutamente. Cioè, ci vuole un computer un po' più carrozzato, perché comunque il gioco è anche abbastanza, punta molto sul realismo, anche visivo, però vabbè, poi insomma si può anche abbassare, però certo, se ce l'avete le condizioni sarebbe assolutamente meglio. Con ray tracing sì. Ok, allora Marcello, parliamo un attimo del tuo canale. Sì, allora, è nato prima di tutto il blog. Il tutto è partito nel 2018 con il blog, il sito internet turnbasedlovers.com, e solo un anno dopo ho iniziato a dedicarmi anche, diciamo, attivamente al canale YouTube. Come dicevi tu, non sono né in grado di fare gameplay troppo complessi, perché non sono molto bravo nel parlare, non sono molto sciolto, quindi vado più per una presentazione. Solitamente faccio i primi 20 minuti di un gioco, oppure poi le liste, quello è il forte sia del blog che del canale YouTube. Beh, ricordiamo che fai il canale è in inglese, tu dici sì, sì, è in inglese, è in inglese. Per assurdo riesco meglio in inglese che in italiano. Beh, no, infatti non l'ho trovata sta difficoltà, nel senso, sei abbastanza fluido, no? nel modo in cui presenti anche, no? È carino pure il fatto che fai il saluto in italiano, che in qualche maniera ti distingue comunque. Dice... Sì, sì. Come mai questa scelta dell'italiano, dell'inglese, scusa? Allora, inizialmente, dico la verità, c'è stata un po' di ricerche su internet per vedere se c'era un sito che faceva questa cosa. A me piace molto presentare i giochi, nel senso preparare le schede, fare una sorta di database. Il mio obiettivo è creare un database sul sito principalmente. E non c'era niente salvo qualche forum e qualche gruppo di Steam che faceva questo. Quindi niente, ho iniziato a fare le overview, cioè prendevo un po' di informazioni di giochi sempre in uscita e in sviluppo praticamente, e li presentavo sul blog. Poi diciamo mi sono fatto coraggio, ho detto magari è carino fare pure qualche gameplay, far vedere i primi 20 minuti senza lasciare troppe, cioè, mie opinioni. Io voglio solo presento il gioco e poi mi piace vedere quello che dice la community. Ok, quindi tu dai l'informazione, no? Tu comunque metti alla luce l'esistenza di certi giochi e poi permetti anche alla community magari di commentare. Quindi anche il blog è in inglese. Sì, sì, okay. sì, anche il blog. Sei partito in inglese, proprio sì. Con questa idea qua. Vabbè, devo dire la verità. Allora, diciamo, anche per chi forse, diciamo, ha un inglese un po' più addomesticato, diciamo, come il mio, diciamo, si comprende bene il canale. Però chiaramente, cioè, se avete proprio difficoltà, a parte che ho visto, cioè, non so se sono automatici o se l'hai messi te, però ho visto che ci sono i sottotitoli in italiano sul uno degli ultimi video che ho visto. Sì, da poco c'era già la funzione, però da poco Google e YouTube ha questa funzione. Praticamente prendo la porzione di testo, la incollo nella parte dedicata ai sottotitoli, e lui in automatico me li va a agganciare alla parte parlata. È fighissima. Molto figo. Sì, e poi in automatico io si aggiungo francese, spagnolo, italiano, lui me lo traduce. Non ho visto la qualità della traduzione, però. Beh, no, io stavo più a ascoltare, però vedevo il testo da sotto che diceva: beh, però vedi questa novità. L'unica cosa, c'è una cosa che fa YouTube ultimamente, non so da quanto lo fa, però io l'ho notato recentemente, che traduce tutto in italiano. Cioè, nel senso che tu vedi, infatti, i prossimi giochi in uscita a giugno, per dirti, sul titolo del tuo video, dico, ma che strano che Marcello ha scritto il titolo in italiano, fammi andare a vedere. Invece, giustamente, il video era in inglese, e tu probabilmente il titolo l'hai messo in inglese. Allora, sì, ma questo sì, capita sì, sì. Anche con i video americani, cioè, nel senso, lui tendenzialmente YouTube qui è traduce. Ah, questa cosa qua non ci avevo mai fatto caso. Sì, ultimamente mi sta capitando spesso. Non so se è una cosa che magari lo fa con me o... Però l'ho notato spesso, insomma. Ed è una cosa che a volte è anche un po' fuorviante, no? Perché vedi il titolo in italiano magari su una cosa complessa che tu vuoi, ti serve quell'argomento, invece poi dopo devi seguire i sottotitoli, diventa un po' più complicato. Vabbè, dai, comunque, al di là di questo, quali sono gli ultimi video che hai caricato? Allora, di solito il mercoledì c'è il Keep an Eye on It. Praticamente scelgo 5 giochi che ho trovato, sempre in sviluppo, sempre che non sono ancora usciti. E niente, pubblico articolo sul blog e poi è il video allo stesso orario, in contemporanea. Questo è il contenuto, diciamo, più frequente. Poi gameplay, quando c'è un po' di tempo, mi gioco qualche gioco o che mi hanno mandato una chiave, oppure certo. Un gioco che ero curioso di provare, tutto cercando di di trovare il tempo. Questo. Ma, beh, certo. E tra l'altro, oddio, se te volevo dire una cosa, mi è sfuggita proprio così al volo, proprio. Vabbè, niente, non la riprenderò mai più. Proprio mentre stavamo parlando mi era venuta in mente una cosa da dirti, ma me la so persa. Vabbè, fa niente, dopo sicuramente mi arriverà in mente e te la richiedo. Sì. Ah, ecco che volevo dire, scusa, vedi, perché purtroppo la vecchiaia a un certo punto a volte fa questi scherzi. Mi ricordo una volta una live che stavi facendo su Yakuza, quello con i combattimenti a turni. Yakuza Like a Dragon. Like sì. a Dragon, che tu ovviamente facevi la live in inglese, io ti scrivevo in italiano e tu mi rispondevi in italiano. E ho detto, vabbè, mo adesso gli faccio lo distraggo troppo. Allora ho detto, ho lasciato perdere perché insomma mi sembrava. Poi veramente diventava un po' bivalente sta cosa. Però era carino, insomma, sei sempre pure gentile. Diciamo che, ecco. Una cosa diciamo su Marcello che ti risponde sempre, perlomeno quando è possibile, quando c'è un senso da rispondere, perché sennò chiaramente. Bene, grazie. Di essere venuto perché ci tenevo. Invece Leo, vabbè, il canale lo conoscete, insomma, vi ho suggerito tante volte, insomma, di andarvi a scrivere, noi ogni tanto lo condividiamo. Lui è comunque anche nel gruppo di Ludico Forum e tra l'altro Leo, tranquillo, butta i link ogni tanto, non c'è mica problema, che non si offende magari nessuno. Per le prime puntate sono un po' shy da questo punto di vista. No, vabbè, perché visto che ogni tanto giustamente Valerio lo faceva, no, l'ho detto, vabbè, ma lo potete fare, fatelo, anche perché poi è un modo, se tu dici alla gente, dice, poi dopo si scordano, non ci vengono, oppure magari gli arrivano, invece vedono il link, vedono la cosa che gli interessa, ci vengono, insomma, secondo me è sempre una cosa. Che hai pubblicato ultimamente? Vabbè, a parte appunto Deliverance, che dici qualcosa su questo gioco meraviglioso. Ultimamente me son imbarcato, come si dice in romano, no? Esatto. Ho cominciato due trilogie infinite che finiranno 2022 probabilmente, sono quella di Mass Effect e quella di Dragon Age. Mass Effect, ricordiamo, la Legendary Edition, giusto? Sì, quella nuova, uh-huh. Esattamente, col 4K, bella, merita. Ecco, l'ho detto anche sul canale, per il prezzo comunque 20 euro per ogni singolo gioco, più DLC e award, vale la pena. Sì, sono molto. Specialmente se non l'avete pagati in passato, insomma, perché no, sennò sono 60 euro che si sommano agli altri. No, vabbè, ma lui lo metti anche in conto. Io sono molto tentato perché è una trilogia che ho amato incondizionatamente, anche con tutti i suoi limiti e i suoi difetti. E in effetti sono molto. Per me Mass Effect e Fallout 3 in particolare, per quanto ho amato tutti, anche i giochi quelli vecchi e via dicendo, sono i giochi penso dove ho impiegato più ore di gioco in assoluto. Poi ecco, diciamo che tu non è che quando giochi un gioco fai la storia così in 10 video, 15 video. Tutto. 80 video. Tu proprio, cioè, te lo tappeti tutto il gioco, e quindi è bellissimo. Insomma, perché se sei curioso anche magari vecchi giochi, io per esempio con Vampire, il primo, che non avevo mai giocato, tra l'altro conoscevo anche poco. C'era sempre un mio amico che mi diceva: "Ah, no, devi giocare, vabbè, ma oramai che mi metto a giocare un gioco vecchio, roba del genere". Ecco, me lo so seguito sul canale di Leonardo, perché comunque alla fine comunque ti dà una marea di informazioni mentre che gioca, e poi si fa ogni centimetro, quindi è interessante, insomma. Vabbè, quindi a parte quindi queste tre Dragon Age, quindi tutta BioWare quasi, insomma, a parte Quella vera, quella vecchia BioWare. Tra l'altro ti do una chicca in più: se ti è piaciuta la voce di Christophe Romuald su Vampire Redemption, sì. Lo stesso doppiatore che è Moneta è quello che doppia anche Shepard in tutta quanta la trilogia di Mass Effect. No, perché io ti ho detto, ogni tanto non l'ho finita ancora la serie, ogni tanto vado a vedere la puntata dopo, capito? Cioè, nel senso, con calma, però sì, si sente che è lui. Vabbè, poi lui ha fatto tantissimi doppiaggi nel mondo dei videogiochi. E via dicendo. Vabbè, allora ragazzi, iniziamo a parlare di questo argomento, no? Intanto diciamo che i giochi a turni, perché noi parliamo dei giochi a turni, cioè il gioco a turni è anche il gioco di ruolo da tavolo, e anche tantissime, anche un board game da tavolo, cioè nel senso tutto quello che alla fine ha avuto un certo tipo di regolamentazione, prima tocca a te, poi tocca a me e via dicendo, insomma, no? Quindi è una cosa che ha radici abbastanza antiche, che poi si ripropone anche nel mondo dei videogiochi, e che io faccio sempre un po' fatica a definire, perché in realtà ci sono, non è che c'è il gioco a turni, c'è il platform, cioè forse il platform è il platform con tutte le varie derivazioni, ma il gioco a turni si dirama in tante sottobranchie, quindi cerchiamo magari di definire Marcello, questa sera di che cosa vogliamo parlare, no? Cioè, nel senso, poi magari questo ci dà l'opportunità di tornare a riparlarne, no? Comunque di fare magari anche una seconda puntata relativa a questo tipo di argomento. Tu che dici? Sì, assolutamente, anche perché come dicevi tu, ci sono tantissime sottogeneri, tantissimi. C'è anche il gioco platform con il combattimento a turni, ce ne sono diversi che sono usciti recentemente, tipo Monster Sanctuary, c'era l'altro... Indivisible si chiama. Sì, sì, sì. Aspetta che te ne trovo uno, perché me ne sono comprato uno proprio l'altro giorno, a un trip. Mi ricorda molto quel gioco platform del ninja che deve fare tutto il gioco platform in stealth, no? Una cosa un po' particolare, sì. Molto schizofrenico. Ne hanno fatto una cosa simile, soltanto che basato sui turni. Cioè, incredibile. Poi, veramente, pure la fantasia, io devo dire la verità. Mo se riesco un attimo, se Steam decide che non mi deve far incazzare, forse riusciamo anche a capire. Aspetta, che te lo sto cercando. Ronin. Ah, Ronin. Allora, sì. Ronin è figo perché tu praticamente quando entra, cioè tu salti, fai, ma quando entra la meccanica del combattimento diventa un gioco a turni. E tu, è difficile pure da spiegarlo un gioco del genere. Cioè, perché, come fai? Cioè, tu devi saltare, devi fare tutta una strategia, così come lo faresti in tempo reale, come se fosse un platform, non è soltanto che hai l'opportunità, questo da una parte... E quelli incapaci come me di giocare magari platform frenetici, e comunque ti dà l'opportunità. Con questo poi non significa che il gioco è facile, anzi. Quindi. Comunque, vabbè, scusa, stavi facendo. No, assolutamente. La tua introduzione. Pensa che Simo. Addirittura c'è un gioco annunciato da poco, Lemnis Gate. Praticamente è venduto come un gioco a turni FPS. C'era quell'altro sempre FPS, come si chiamava quello che si fermava il tempo, quello che tutti i personaggi sono rossi praticamente. Oddio, come si chiama? Super Hot. Bravo. Bellissimo. Ah, bravo. Super Hot, sì. Eppure quello è fondamentalmente il principio è quello. Sì, praticamente non ho capito bene la meccanica, tipo a 15 secondi, in 15 secondi ti puoi muovere, una cosa del genere praticamente. Eh sì, no, è affascinante questo fatto che veramente è quello che tu poi in realtà potresti definire il classico gioco di ruolo, il classico gioco alla XCOM, quindi a esagoni, a quadrati e via dicendo. Poi in realtà oggi, che questo genere, come poi diremo anche più avanti, oggi riesplode in qualche maniera, quindi si sta veramente espandendo con una grande velocità, lo sta facendo anche con la creatività, che poi è grazie al mondo indie che tutto questo... Tra l'altro mettendo anche nelle condizioni produzioni AAA o comunque grandi produzioni devi dire vabbè quasi quasi abbozzo anch'io un qualcosa, no, che sia del genere. Io penso a Gears Tactics per esempio, non l'avresti mai, qualche anno fa non l'avresti mai immaginato un gioco del genere, insomma. È vero, vedi pure Yakuza, Like a Dragon, cioè una serie action, sempre stata action, sono stati coraggiosi a proporre un combattimento a turni. Leo, Final Fantasy diventa action e Yakuza diventa turni. Mi si spezza il cuore. Però ecco, c'è anche Persona che ha mantenuto comunque lo stile. Infatti sono contento che loro non si sono, diciamo tra virgolette, venduti. No, a me Final Fantasy mi è sì, diciamo il Giappone molto, si è spaccato in due da questo punto di vista, no? Chi è comunque cerca di mantenere una, come posso dire, una certa tradizione, che poi Square in particolare si è divisa in due, perché i giochi di punta sono tutti diventati action e i sottogiochi, quindi tutte quelle produzioni diciamo di secondo piano secondo loro, sì, in realtà sono tutti giochi a turni, no? Penso pure a Octopath Travelers. Bellissimo, lo sto giocando quello, se non sbaglio. L'unica cosa che io detesto è il discorso che veramente oggi, cioè io ho quasi 50 anni, cioè oggi il combattimento casuale è una cosa cosa che non mostra, si fa fatica a reggerlo, perché poi mi ero appassionato veramente tanto, stavo andando avanti, stavo diventando anche Però poi a un certo punto dico, vabbè, ma basta, cioè, ma come si fa? E perché è bello anche stilisticamente. Cioè, capito, questa cosa di questo ambiente 3D con il richiamo invece alla tradizione 8-bit. È una figata, cioè, proprio bravi, bravi. Bel gioco. Leo, dici qualcosa pure tu, che se no stavo a parlare. Cioè. Vabbè, parlando dei combattimenti casuali, quelli sono un po' come lo zio antipatico quando ti viene a cena, fanno ridere le prime due battute, poi dopo arrivederci, diciamo, è un po' come su Pokémon, divertente, eh? Poi dopo mezz'ora, quando hai fatto il 40° fight random, mi capita anche su Kingdom Come quello, devo dire. Sì, diventano un po', sì, vabbè, allora, noiosi. Però diciamo che la cosa che fa la differenza è la quantità, perché io capisco pure che tu il personaggio in generale, poi stavo andando proprio a casaccio qua, però vabbè, mi piace così. Diciamo che tu il personaggio lo devi fare livellare, no? Cioè, nel senso, se parliamo dei giochi del ruolo in particolare, no? Quindi ci sta che tu devi fare incontri o su incontri. Però, per esempio, io stavo a giocare all'ultimo Dragon Quest. Cioè, il fatto che sei tu che decidi quante volte combatti con quanti personaggi, poi dopo è la meccanica diventa un po' pallosa, però se non altro lo decidi tu, ma non che tu, cioè, per esempio, se io sto con lo sputo di vita e voglio arrivare al save game, schivo l'avversario e cerco di arrivare al save game. Il fatto che tu invece devi fare tutto questo pezzo da A a B senza avere l'opportunità di salvare, con gli incontri casuali, e te sei arrivato allo sputo di vita e morirai, perché poi morirai, e quelle sono le cose che a me fanno incazzare in un modo inverosibile. Oppure sei sbagliato strada e devi tornare indietro. Anche. No, ma la cosa dei combattimenti a turni era veramente... Questo non lo sapevo, non si potevano doggiare su cosa. Almeno su Kingdom Come puoi evitarli, i combattimenti a caso. Insomma, dici no, non voglio, evita. No, di solito sui giochi giapponesi, i vecchi giochi, anche Final Fantasy, cioè quando il combattimento a turni, cioè, se c'hai il comando fuga, è fughi. Però a volte prendi pure penalità, insomma, no? Quindi alla fine sì, muori lo stesso, insomma, quindi... Sì. E insomma, un po' questo alla fine. O sono troppo terrorizzati per fuggire, come su Darkest Dungeon, per esempio. Quella è una meccanica bella. Allora, Marcello, secondo te quali sono i giochi a turni attualmente più in voga? Cioè, nel senso, in generale, quelli che secondo te sono, diciamo, quelli più graditi dal pubblico, e quelli che secondo noi invece, quelli che secondo te, quindi poi anche Leonardo, sono invece quelli che meriterebbero di più attenzione, se c'è una differenza tra queste due visioni? Allora, sicuramente quelli più proposti attualmente sono i card battler. Ci sono una miriade di giochi che ti offrono il gioco RPG open world, però con il combattimento con le carte. Mm-hmm. E a me non, sinceramente, non piace tanto. Oppure il deck builder classico, tipo Slay the Spire. Quelli ce ne sono tantissimi. Ho fatto pure un articolo con 10 giochi, ma ne ho lasciati fuori una quindicina. Quindi questa è la, secondo me, la tendenza. È vero che però ci sono tantissimi giochi, è ricco proprio, specialmente il mercato indie. E quelli che piacciono a me sono i tattici, magari pure con la componente strategica. Io adoro XCOM, quindi su quel genere si focalizza la mia attenzione, quindi... sì, ti direi questo è più o meno la panoramica. In base a quello che vedo, in base ai giochi che trovo. Certo. Quindi ti dico, i giochi con l'uso delle carte sono quelli più gettonati. Ok. E invece quelli che tu preferisci? Cioè, i tattici a turni, sì. Quello più tradizionale, diciamo. Sì, non lo so, pure un Wasteland, per dirti, con la possibilità di muoverti, di aggirare il nemico, questa cosa qua mi piace parecchio, e magari con il pizzico di componente strategica non guasta. Sì, no, e poi dopo ne parliamo un pochino, ma anche un po' così, se sentiamo le vostre opinioni, perché io ci so giocare... Tra l'altro, l'unica cosa che non perdonavo al gioco è il costo. diciamo così, il costo, sì, che secondo me è abbastanza alto. Infatti me lo so giocato col Game Pass anche io, Microsoft, perché comunque cioè, vale la pena a quel punto, insomma. E devo dire che è un gioco meraviglioso, è il gioco, cioè, come me l'aspettavo. Io poi veramente, ragazzi, a volte rido, cioè, nel senso, le boss battle, no? Quando con quelle canzoni che ti ricordano quei montaggi delle serie TV o dei film dove succedono delle cose terribili, spruzzi di sangue e merda, cose tutto a rallentatore con queste musiche liriche sotto, capito? Ci sono delle cose meravigliose, ragazzi, tipo lo scontro quello con i pagliacci con Reagan alla Stato. Bravo, mamma mia, meraviglioso. Tu ci stai a giocare, sì. Leo? No, infatti mi avete interessato mica poco. Vabbè, se conosci quello precedente, estendilo, cioè sia tecnicamente. Non l'ho finito quello precedente, il primo, devo dire, ma mi ha annoiato verso i tre quarti, quasi finito, poi a un certo punto è cominciato a diventare un po' tedioso, sì. E dopo, sai, diciamo che è un gioco un po' diviso in due. Sì, è un gioco un po' diviso in due, perché c'è tutta la prima parte e poi dopo ho spezzato in due come gioco, e forse c'è questo rischio qua. Diciamo che io ancora non sono andato abbastanza avanti da poterti dire se c'è lo stesso rischio. Ti posso dire che c'è il rischio di morire in continuazione, quello sicuramente. Sì. quello allora è assolutamente una cosa che adoro, perché esatto, non è difficile, non c'è gusto. No, infatti. Invece quali sono, Leo, i tuoi generi dei giochi magari a turni che preferisci? Allora, ne parlavamo l'altro giorno, no? Avevamo separato quelli strategici, diciamo, in due macro gruppi, che sono quelli a celle tipo XCOM e quelli stanziati tipo Darkest Dungeon, For the King, eccetera. Mi piacciono entrambi come macro generi, però sono più buttato su quelli stanziati, perché mediamente sono quelli che hanno più caratteristiche RPG. Mediamente, poi dipende, perché ne so, Darkest Dungeon c'ha una caratterizzazione dei personaggi profonda, stesso vale per For the King, Operenze, altri giochi così, quindi sono quelli che principalmente preferisco, quindi quelli che tocchi il nemico e poi salti in un'istanza a parte e combatti. C'è Gianluca Sansò che in chat ci chiede: ma alla fine li scrivete l'elenco dei giochi di cui avete parlato nelle note dell'episodio del podcast? No, chiaramente non lo faremo mai, ma vai ovviamente nel blog di Marcello e nel suo canale, oltre che ovviamente noi li metteremo sia il canale di Marcello che quello di Leo sulle note dell'episodio domani quando uscirà il podcast, quindi andate tranquilli, però non ci mettete a fare le liste, perché proprio sapete, non lo faccio da 7 anni questo lavoro, quindi figurate. Va bene, comunque, che poi tra l'altro anch'io sono un amante dei tattici cioè a me piace lo schema XCOM, no? Non sì, come tipologia narrativa, che va bene, sì, mi piace. In generale mi piace il sistema XCOM esteso in varie declinazioni, tant'è che a un certo punto mi è capitato, non so se l'avete mai trovato, di incontrare su Steam un gioco che si chiama Hard West, sì, che è un gioco tattico a turni ambientato nel West, nel Far West, con elementi Cthulhu, cioè quindi Lovecraft, no? Che vabbè, tu dici, che cazzo c'entra? Infatti non c'entra niente, però ragazzi è una figata, è un gioco indissimo, infatti è il primo gioco di questa software house. Alcune meccaniche base dei giochi a turni tipo l'Overwatch, queste cose qui manca completamente, cioè nel senso è molto molto, però è un gioco comunque difficile, e infatti ci ho messo una cifra a finirlo, ci sono anche dei DLC, e poi gli stessi hanno fatto un altro gioco che si chiama Phantom Doctrine, sempre turn based, però sull'epoca della Guerra Fredda, quindi di spionaggio, devi fare incursioni, andare a rubare documenti. Insomma, questa è la software house che ha fatto questi due giochi, che è migliorata rispetto al primo gioco, chiaramente. Però devo dire che il carisma del gioco western è una figata, raga. Cioè, è proprio zozzo, è bello. Cioè, mi piace. Tramontabile come genere, dai. Sì, che poi è un gioco piccolo che costa poco, cioè non è lunghissimo. Quindi, cioè, comunque dici, ok, mi voglio cimentare. Ti diverti ugualmente, insomma. Ma non sapevo che l'avessero fatto loro, io, perché io ho giocato Phantom Doctrine e mi è piaciuto tantissimo. Uh-huh. E adesso che mi hai detto che Hard West l'hanno fatto loro, magari. Sì, è il gioco precedente, quindi tecnicamente è un gioco inferiore, cioè nel senso, ti ho detto, mancano proprio degli elementi basici del gioco tattico, no? Cioè nel senso, ho detto, però c'ha pure un sacco di elementi strani. Le sfide sono importanti. Io alcuni livelli l'ho dovuto rifare. E che io gioco a difficoltà media, in generale, non è che gioco. E non, su questo tipo di giochi non mi ritengo una pippa, insomma, come su un platform, ad esempio. Però proprio insomma, veramente impegnativo. Bello, cercatevelo se vi capita. Vedi, Marcello, ho dato un suggerimento. Grazie. Phantom Doctrine, com'è? Ne approfitto perché non l'ho provato. Marcello. Eh sì, Marcello, Leonardo, scusa, dillo tu. Così è un bel XCOM, non AAA, diciamo doppia A. Diamogli okay. Due di A. È veramente valido, è carino, contando che l'ha fatto. È un po', appunto, mettendolo in maniera parallelamente a Kingdom Come Deliverance, no? È stato fatto da uno studio piccolo, poche persone, comunque sono riusciti a deliverare un bel prodotto, secondo me, specialmente per il prezzo che ha. E ve ne aggiungo pure un altro buttato lì, che è impronunciabile. Si chiama Dungeon of Naeulbeuk. Ah, bellissimo. Non ho idea di come si pronunci. Che è un altro giochino fatto da uno studio indie. Questo è fantasy, però è analogo, diciamo, come qualità del prodotto, di li mettere insieme sia quello che l'altro di cui parlavamo prima. Insomma, sono entrambi ottimi giochi. Vero, Leo, questo è favoloso. Poi c'ha una comicità. Io ho giocato circa 2-3 ore. Mm-hmm. Però c'ha lo gnomo, il dwarf, che è uno spasso, un personaggio. Io mi sono appassionato perché ho visto tutti i trailer, infatti lo sto aspettando che qualcuno mi commenti dicendo "Ala, ma lo porti?", solo che mi chiedono tutto quanto meno che quello, quindi poi, piano piano, poi magari ci arriveremo anche là col canale. Ecco, io per esempio sto notando ultimamente, e qui entriamo magari nell'ambito, insomma, dove anche Leonardo, insomma, ha le sue skill, diciamo così. Ho notato che questo ritorno anche ai giochi basati, diciamo, sulle meccaniche di D&D, no? Quindi riportati anche a turni, perché per esempio tu, Leo, hai fatto tutto il gameplay del prologo, chiamiamolo così, come se, insomma, della prima parte di Baldur's Gate 3, no? Sì. Che diventa un gioco a turni, così come poi alla fine era Divinity, perché chiaramente i sviluppatori sono gli stessi, con delle meccaniche sempre più avanzate, cioè questa cosa del tiro dei dadi, a volte in background, a volte palesi, a volte non si capisce se sono motivate veramente dalle tue peculiarità o se so perché il gioco deve essere infame. Questo ancora non mi è chiaro. Però c'è anche Solasta, per esempio, che è uscito ieri, no? Che è uscito definitivo ieri, che anche lì c'è la spinta, tutta una serie di meccaniche che una volta alla fine non c'erano. C'era dai la spadata, tira la palla di fuoco, alza lo scudo, dai la spinta, no, spinta, dai, come si dice, l'attacco quello potente di scudo. Però insomma, ci sono questa evoluzione, diciamo, la possibilità di far evolvere queste meccaniche di gameplay, che rendono il combattimento a turni molto più profondo di quanto poi molti magari non considerano, perché pensano che a turni allora è più facile. C'è la spinta però su coso, per esempio su Baldur's Gate, che è anche rotta come meccanica, perché noi abbiamo buttato giù da di sotto quando abbiamo fatto, perché abbiamo giocato in coppia, hai visto, no? Con sì, un altro sì, amico. Sì, con, sì, no, ma Andrea. Infatti lo dicevo, il fatto che sono state aggiunte tutte queste meccaniche nuove, no? Che nuove in realtà, vabbè, che comunque danno profondità, no? Rispetto al passato, ma aggiungono ulteriormente profondità. Sì, parzialmente, però, sai, perché per esempio quando sei tu magari che mi fai il DM e io ti provo a spingere giù uno dei personaggi che tu hai creato, tu sai la forza di quel personaggio e puoi decidere se in quel momento sia certo. Il caso, se non vuoi spezzare magari la tensione, perché è chiaro, se io do una spinta a un boss al primo turno e che gusto c'è, e lì noi l'abbiamo fatto, abbiamo buttato la strega al primo turno di sotto e finito il fight in 5 secondi. Vabbè, tu hai ammazzato le persone con le zucchine, però. Esatto, e poi uscito con i nemici tirandogli le salsicce e le zucchine. Fantastico, quindi insomma sì, perde un pochino quando lo fai su un videogioco, secondo me. Questo poi erano discorsi che avevamo fatto un pochino, avevamo toccato, ti ricordi, no? Nella prima puntata, quella sull'immedesimazione. Sì, sì. Quindi mi piace fino a un certo punto nel videogioco, lo preferirei sui giochi da tavolo questo. Però le meccaniche nuove sono fighe, cioè tutte quelle che hanno aggiunto la Larian negli anni, sono di qualità altissima. Alcune sono belle, altre sono discutibili, però insomma l'Arian sa come si fanno. Ma forse bisogna ancora dar tempo anche di perfezionare, no, determinate meccaniche, perché come dici tu giustamente, tu vuoi applicare magari quelle che sono i concetti magari legati a un gioco più magari dal vivo, no? Quindi magari più da tavolo, a una meccanica da videogame, però giustamente tu non c'hai lo stesso feedback, non hai le stesse informazioni perlomeno, no? Magari in un modo o nell'altro, forse prima o poi troveranno anche il modo di far questo, però il rischio è che poi, ecco, forse il problema di Solasta è che c'è questa interfaccia che è un po' invasiva, no? Cioè, nel senso, alla fine più informazioni il gioco ti deve dare, più ovviamente tutto ciò che è lo scenario viene un po' meno, no? Non so se siete d'accordo, ragazzi. Ma negli RPG penso che sia un po', non lo so, penso pure a te in realtà, alla fine ti fa piacere, no, quando vedi quei bei barroni lunghi pieni di spell e la vita di tutti i personaggi. A me l'interfaccia negli RPG piace, cioè la uso. Ah sì, ma per me più informazioni ci sono è meglio, però io lo so io, cioè nel senso la voglio molesta io, capito? Okay. Proprio l'interfaccia. Ok, Marcello? No, io una volta ne parlai pure con Leo durante una live che stavo facendo di Baldur's Gate. A me mi spaventano, nel senso, io non ho mai giocato un gioco da tavolo, quindi ho questa grande pecca. Mi piacciono, secondo me mi piacciono, però non l'ho mai giocato, quindi questi giochi che richiamano pure le regole dei Dungeons and Dragons a volte mi spavento, nel senso non mi sento all'altezza, e quindi spesso pure sul canale ho paura di giocare, c'è il primo che mi dice oh ma che stai combinando, e quindi piace la cosa un po' più schematica, sai, ritorno sempre a XCOM, mi piace più la cosa un po' più semplice, gestita in modo un po' più semplice, però è una cosa mia, però una diciamo che è una mancanza mia. Diciamo che Divinity è XCOM che è spade, dai, cioè nel senso, cioè nel senso sì. Che alla fine diciamo che secondo me allora partono da presupposti completamente diversi, però poi più o meno se sai giocare a XCOM secondo me te la puoi cavare anche con, sì, diciamo c'è quel senso di maggiore libertà. Però per esempio, scusami, sì, vai. Per esempio sulla creazione del personaggio, i vari spell, non lo so, provai Solasta solo per il classico video di anteprima, è quasi un'ora solo per creare il personaggio. Vabbè, quello sì, quello è proprio il gioco per i super amanti, eh? Cioè quello è proprio per i passionati del super genere proprio. Sì, un'ora poi non so nemmeno che ho combinato, perché poi alla fine ho finito per mettere cose a caso, quindi... Però questo è un po' uno dei topic della serata, immagino, Simo, no? Il fatto che un pochino magari a volte i giochi a turni spaventano. Infatti era proprio questo che volevo chiedere, no? Perché... io non ho visto una sempre, no, vabbè, io ho visto poi magari la mia percezione, mi dite voi se avete la stessa percezione, cioè ho visto tanto una certa diffidenza rispetto a questo genere che appunto oggi sta cominciando a conquistarsi, diciamo, una fetta di mercato. Una volta era, diciamo, appartenente a quel gruppo, insomma, di videogiocatori duri e puri che piaceva quel genere lì e via dicendo. Quindi intanto capiamo se c'è veramente questa diffidenza, e poi c'è per due ragioni probabili, secondo me. Poi uno è perché comunque secondo me il gamer hardcore da gioco frenetico pensa che è più figo lui che gioca a quello piuttosto che quelli che giocano ai giochi tattici, o perché comunque la gente vede il gioco tattico complesso e pensa che sia troppo complesso, no? Cioè nel senso, non, io sto gioco mi sa che non so capace a giocarci, che poi ci può anche sta, non è che da chi iniziamo? Da Leo, dai. Io prendo un po' spunto da quello che ha detto Marcello un attimo fa, no? E infatti mi ha illuminato. E poi detto da lui, che comunque sia, è una persona che di RPG ne sa tanto, e di RPG nello specifico a turni altrettanto. Ed è un po' spaventato da sta faccenda qui, che spaventa ancora di più chi non ha almeno un piede nella porta, ovvero sia il fatto che magari è complesso avere un grip iniziale su quella serie di tool che ti dà il gioco, che sono le spell spesso e volentieri dei personaggi, le abilità, che magari sono tante, e uno rimane un po' spaesato, dice che ci faccio tutta sta roba. In realtà poi alla fine, se andiamo a vedere, questo vale per tutto, giochi da tavolo, giochi per PC, qualsiasi cosa, hai di solito un core che diciamo saranno, che ne so, 5-6 spell o 5-6 abilità, che sono quelle importanti, semplici, che il gioco ti dà all'inizio, che sono le cose che utilizzerai sempre, e il resto sono un po' cose situazionali che poi impari a usare con calma. Quindi mediamente il gioco lo finisci con mezza barra piena di spell, il resto è tutta roba che poi gira intorno, magari la usi una volta o due. Quindi diciamo la paura andrebbe combattuta sapendo almeno questa informazione iniziale, poi da lì è tutta discesa. Questo sono abbastanza d'accordo, perché infatti giocando in particolare a Pillars of Eternity 2, che non è un gioco a turni, anche se lo puoi mettere in modalità a turni, ci ho provato ma mi è sembrato veramente artificiale, cioè nel senso, se è un gioco che è progettato per essere altro, no? Quindi sembra un po' strano, era. Però ecco, io comunque alla fine delle 50.000 spell che alla fine tu guadagni con l'evoluzione, io alla fine ne usavo 5, cioè come dici te, cioè alla fine mi focalizzavo molto su, a parte ovviamente le proprietà passive, che quelle le sviluppi, quelle sono passive, comunque non è che devi stare, però effettivamente la quantità di informazioni può spaventare. In realtà non è così neanche necessario, perché come dici tu, comunque incanali il personaggio su quello che ti interessa a te e alla fine finisci per usare più o meno sempre le stesse cose, che è anche giusto, no? Perché non è che puoi essere, cioè, il personaggio che sa fa tutto alla fine non sa fa niente, sì, insomma, questo vale. Non è che uno può prendere il PhD in Pillars of Eternity per imparare a giocarlo, serve la triennale in Pillars, insomma devono anche farli accessibili al pubblico e non terrificanti. Come lo è Pathfinder, per esempio. Pathfinder Kingmaker ti serve di aver letto quantomeno il manuale. Infatti mi sono preso fior di insulti su YouTube per il Let's Play, perché giustamente non avevo letto niente, sono andato alla cieca così, ho fatto un sacco di capponate. Sì, infatti sì, la quantità di informazioni che spaventa, perché inizi a giocare, almeno per me, pensando sicuramente ho sbagliato qualcosa, sto sbagliando qualcosa, non lo so, non riesco a poi a godermelo. Pathfinder stessa cosa, io l'ho avviato, penso c'ho un'oretta e mezza, un due orette di gioco, poi l'ho lasciato. Era una cosa incredibile. Scusate, sto intanto rispondendo, sto ascoltando, non mi fraintendete perché sennò sembro scortese, però giustamente mi fanno le annotazioni tecniche dal gruppo The Runtime. Stiamo facendo l'app, lo diciamo ragazzi così ufficialmente, stiamo facendo l'app perlomeno per ora per iOS, per ascoltare runtimeradio.it, sia per quanto riguarda le live, quindi tutto il palinsesto giornaliero 24 ore su 24, lo sapete, siamo sempre in streaming con una quantità di programmi sempre aggiornata, e per essere una web radio tra virgolette non professionale, chiaramente dovete considerare che ci abbiamo in programmi che altri non c'hanno, cioè nel senso, io sento tante web radio che fanno solo musica fino alla sera, che fanno il programmino. Comunque vabbè, detto questo, e poi c'è tutta la lista dei nostri podcast che conoscete, ormai sono infiniti, siamo arrivati a 25.000 download dal milione, ragazzi, quindi anche qui facciamoci un po' di applausi, facciamo un po' di sboroni che ci fa sempre bene. Allora, ragionamento verso dinamicità, cosa preferiscono secondo voi in generale i giocatori? Perché poi pure questa cosa è al di là, ecco, accantoniamo un attimo la complessità, che abbiamo capito che forse è l'ostacolo più grande, ed in effetti nei giochi puri e duri, quelli veramente hardcore, dove lo sviluppatore dice io non voglio guadagnare i soldi, voglio fare il gioco duro e puro, però ecco, accantonato un po' questo elemento, poi cerchiamo di capire che cosa percepisce il videogiocatore, magari non addentro diciamo al gioco a turni, rispetto alla dinamicità che ci può avere un gioco a turni, se c'è, se non c'è, se in effetti è un limite o se non è un limite, perché comunque alla fine c'è la bellezza magari in un altro aspetto che non è proprio direttamente la dinamicità. Marcello, non so se mi sono spiegato, perché in effetti sì. Ok. Sì, allora per me il discorso è tutto come viene sviluppato e come gestisci, non lo so, un'eventuale fase di combattimento a turni. Il combattimento a turni può essere veloce, fluido e divertente, come un gioco d'azione può essere lento, Quindi è più come viene sviluppato, secondo me, l'idea alla base del combat system è quello che fa realmente la differenza. Quindi la questione di dire il gioco a turni è lento di suo, magari è solo un preconcetto, diciamo, un qualcosa di chi da fuori vede un gioco e ci mette un'etichetta, insomma. Quindi la differenza la fa lo sviluppo, cioè quello che riesci a fare, secondo me. Sono assolutamente d'accordo, poi dico anche la mia. Vai, Leo. Allora, partiamo prima però da un presupposto, secondo me, che questo vi potrà interessare a entrambi, che secondo me in base ce l'abbiamo proprio nell'animo il fatto che cerchiamo di più l'azione, cioè vale per gli sport, per la vita in generale, tant'è che magari gli scacchi, ma sì, cioè il calcio, il tennis o qualsiasi cosa spinge comunque di più la Formula 1 rispetto magari agli scacchi, che gli scacchi sono uno sport fighissimo, però magari non è la cosa che ti vai a guardare la sera in TV, giustamente. Però se prendiamo, rimaniamo poi a tema Final Fantasy, no? Prendiamo per esempio due Final Fantasy, un Final Fantasy 8, 7, per esempio, che erano i classici a turni, JRPG, e quello è un gioco a turni veloce, perché ti spinge ad essere veloce, il turno non dura quanto vuoi tu, dura quanto dice il gioco, quindi lì è dettato da una scelta poi degli sviluppatori. E dall'altro lato prendiamo invece Final Fantasy 14, che è l'MMORPG, che è un gioco che dovrebbe essere frenetico alla World of Warcraft, che però è lento, perché è sempre dettato dal gioco. Sicuramente sapete, gli MMO hanno quel global cooldown, no? Che quando premi una spell devi aspettare che il cooldown della spell sia zero per poterla riusare, e in base a come viene deciso, chiaramente, quanti secondi dura su un gioco o su un altro, inevitabilmente ti rallenta. Su Final Fantasy XIV sono 2 secondi e mezzo tra una spell e l'altra, quindi è inevitabilmente lento rispetto a World of Warcraft o altri MMO frenetici, però nonostante tutto è considerato un action. Quindi dipende tutto, come diceva Marcello, dalla scelta poi degli sviluppatori. Quindi si possono fare giochi a turni veloci e giochi action lenti. Secondo me la dinamicità la percepisci anche nella scenicità, insomma, del combattimento. Io vedo che molti giochi che vogliono restare a turni oggi ammiccano all'aspetto cinematografico, anche sul combattimento a turni, che probabilmente è la cosa che in qualche maniera mancava, no? Cioè, nel senso, se io penso, come dicevi te, a un Final Fantasy 8, 7, ma anche 9, chiaramente, perché comunque siamo... Però anche il 9 forse c'era già qualche elemento in più, che ci sono 3 personaggi da una parte, 3 personaggi all'altra, e tu attacca, quello attacca, spella e via dicendo. Spella è bello. Invece oggi vedo che comunque c'è un'attenzione proprio al più al movimento, anche visivo, no? Cioè, questo da una parte secondo me dà più dinamicità, oppure uscendo un po' dal classico JRPG, ritornando a Westland 3 per esempio, secondo me quello è un gioco dinamico. Cioè, per quanto sia un gioco a turni, è un gioco dinamico, perché comunque alla fine c'è movimento, c'è fluidità anche nell'azione tattica a turni, e tra l'altro anche visivamente aiuta tantissimo il fatto che il gioco ha comunque un engine, insomma, migliore rispetto a quelli passati e via dicendo, dove c'è anche luci, ombre, le esplosioni sono più belle, comunque tutta una serie di determinate cose. E poi ritorniamo a quello che dite voi due, secondo me molto della scelta dello sviluppatore barra la regia del designer, in questo caso del direttore, che è quello di decidere che in certe situazioni il combattimento subisce questo tipo di influenza dal punto di vista scenico. E come tornavamo prima al discorso delle canzoni su Westland 3 per esempio, cioè, gloria gloria alleluia mentre stai a fare la mega battaglia sotto la cosa di Ronald Reagan, ragazzi, è spettacolare, cioè, e quello quando sei lì sei gasato e egualmente che se stai a menà in un action, cioè io perlomeno, a me perlomeno mi ha fatto sta sensazione qua, cioè mi sono veramente troppo divertito. D'accordissimo con te, Simo. Sì, assolutamente, specialmente in alcuni giochi. E poi dico una cosa in più, Simo, secondo me ci aggiungiamo anche il comparto audio, che insieme alla parte artistica ti aggiunge un altro layer in più e diventa, cioè, puoi volare tranquillamente anche con un gioco a turni, semplicemente. Vero. Poi io vedo anche, sì, che poi no, che poi in realtà è come diciamo il fatto della regia, dell'audio, cioè nel senso in realtà anche gli indie, a parte quelli un po' più, come te posso dire, rigorosi, più ortodossi, diciamo così, se oggi alla fine il videogame, no, al pari del cinema è un'opera multimediale, no? Che ovviamente è fatta da immagini, da luci, da suoni e da musica in particolare, no? E quindi l'utilizzo comunque di questi strumenti diventa anche più magistrale, no? È chiaro che le software house meno avvezze all'utilizzo delle professionalità da quel punto di vista, quindi nel senso artistico, diciamo, magari tendono a escludere questa cosa qui, e quindi il gioco risulta più grezzo rispetto a quanto siamo abituati oggi, no? Che vediamo comunque delle opere che ai titoli di coda hanno gli stessi numeri di persone che lavorano in una produzione cinematografica, no? Quindi alla fine siamo abituati a vedere quel tipo di lavoro. Vedere una cosa un po' più scarna, diciamo, magari per le generazioni più giovani fa un po' fatica, no? In realtà alla fine bisogna saper scoprire un po' tutto, cioè alla fine la cosa che secondo me alla fine scoraggia la gente ad avvicinarsi a certi generi è anche lo stesso motivo per cui molti non giocano i giochi indie, alla fine quelli indie proprio, cioè, però magari preferiscono non giocare ad Hard West, ma preferiscono giocare a Isaac lì, come Binding of Isaac, Blind, sì. Esatto, bravi, cioè nel senso, ecco, pure sta cosa bellissima. Perché secondo voi? Perché comunque il gioco hardcore action, al di là della necessità antropologica che diceva prima ovviamente Leonardo, è perché comunque fa proprio più scena, fa più tendenza, fa più YouTube, secondo voi? Iniziamo da Marcello. Non so, forse sì, forse un discorso di non so, di immersione. Il gioco action, non lo so, forse le persone riescono a medesimarsi di più nel personaggio, magari vedere una persona ferma lì, oppure vedere il mostro che aspetta il tuo turno, può far calare un po' la, diciamo, questa voglia, questa immersione nel gioco, insomma, forse può essere questo. Anche se secondo me principalmente è il pregiudizio, nel senso, bisogna provare tutto nella vita, quindi io da poco ho iniziato a giocare un po' a Warzone con i colleghi di lavoro, perché loro giocavano, ho detto fatti una partita con noi, è divertente, ma io gli FPS non li avevo mai considerati mai, quindi questa cosa avviene sia verso l'action che verso il gioco a turni, non lo so, c'è un po' di tutto, quindi difficile dire una cosa precisa, insomma. Diciamo, per giusta informazione, che Marcello intende che loro giocano al di fuori dell'orario del lavoro. Giustamente. Specifichiamo, non si sa mai. Sì, boh, l'azienda dove lavoriamo è la mia, quindi in teoria ok, allora non frega un cazzo, lavorano anche. Ok, va bene, allora va bene. No, che ne so, io non so che posso giustamente sapere. Quindi vabbè, insomma, comunque la difficoltà scoraggia il pubblico. Invece una tendenza che vedo molto in questi tempi in particolare è la cosa del roguelike, no? Che tra l'altro io dico la mia proprio tranquillo, spassionato, a me è un concetto, perché più che una meccanica, si parlano di meccanica, in realtà non è una meccanica, è più un concetto, che a me sta un po' sui coglioni, diciamo la verità, perché capisco la difficoltà, capisco l'impegno, ma e metterti nelle condizioni di arrivare a un punto e poi magari muori e devi ricominciare tutto da capo, no. Sì, diciamo, come anche in questo caso, come viene gestita, nel senso che a me non dispiacciono, però il roguelike inteso proprio nel nel termine diciamo originale, prende spunto da Rogue, il vecchio gioco Ashi, con quando ti muovi si muove tutto il mondo attorno, non so, conoscete Stone Shard come gioco? Sì, come no? Io no. Ecco, quello è bellissimo, È bellissimo, però come dici te ha un sistema di salvataggio, almeno aveva, perché tra poco viene implementato, che se non andavi a dormire nella locanda, poi perdevi tutto il magari un'ora e mezza di gioco. E quindi il roguelike può essere antipatico, però a me piace. Quindi non lo so, è molto molto personale questa cosa, quindi non lo so, la vedo così, okay. Ma mi piace, quindi mi fermo qui. No, ma ci sta, non è che dobbiamo essere d'accordo. Nel senso, anzi, voglio dire, c'è un motivo a ascoltare il pensiero diverso che ti induce anche un po' a magari a ragionarci sopra, perché io magari d'istinto, diciamo, mi sta sui coglioni sta cosa. Ma magari comunque se è motivata in un contesto, ci può anche sta. Come dici te, bisogna poi sempre non limitarsi, no, al preconcetto. Leo. Diciamo che roguelike, poi c'è anche l'altro termine, no? Quello del roguelite, che sarebbe lite, no? Quello un po' più leggerino, sì, sì, che non è proprio il roguelike, quello duro. Sono già di per sé due parole che solo anche se ne parliamo ci gettiamo in una palude buia, pesta con i coccodrilli, perché insomma il fan sfegatato ovviamente vuole il roguelike in un certo modo. Oggi si sono ovviamente inteneriti perché la gente non c'ha tempo, giustamente. Perdere appunto un'ora di gioco è crudo, sì, è pesante, scoccia tanto. Io sono più per il cosiddetto roguelite, quindi quella via di mezzo, insomma. Quello magari che è duro, ti punisce, forte, però salva costantemente. Io ripeto sempre il buon Darkest Dungeon, che comunque viene preso anche come roguelite, e secondo me è l'esempio perfetto di oggi, che è un gioco difficile, è un gioco che ha una randomicità, un RNG che non ti lascia scampo, e a volte ti ammazza personaggi nei quali magari hai investito decine di ore, e ti salva costantemente il gioco, ed è tanto punitivo quanto il dover ricominciare da capo, se non peggio. Perché a volte sei tu quello che dice: no, vabbè, adesso mi tocca ricominciare da capo perché ho perso questo personaggio e non posso più farcela. Quindi secondo me è meglio il metodo moderno, insomma, di vederlo rispetto al perdere tutto. Che poi sapete che è proprio una cosa tra i nostri podcast, ovviamente, noi facciamo quella serie di archeologia informatica e archeologia videoludica, che sono forse i due podcast di punta che facciamo oramai da tantissimo tempo, e abbiamo già discusso questa questione del termine roguelike, che in realtà è inappropriato, poi fondamentalmente, cioè è una cosa che è andata di moda un po' di tempo fa, non tantissimo tempo fa, e che viene anche riportata da Wikipedia come termine tra virgolette ufficiale, no? di un termine che definisce una tipologia di giochi, ma in realtà Rogue è del 1980 e ci sono tantissimi giochi precedenti che portavano la stessa filosofia, le stesse meccaniche, chiaramente, perché i giochi in particolare allora così erano, non è che c'era tanto da dire. Ad esempio Benite Apple Manor, che è del 1978, adesso me lo sono andato a ripescare, e ce ne sono tantissimi altri, quindi poi alla fine fa molto arrabbiare diciamo quelli che sono gli ortodossi della ricerca della storia del videogioco, che chiaramente oramai sta diventando quasi materia accademica, no? Quindi da un certo punto di vista ci vuole un certo rigore. Dall'altra invece quelli che vanno a fare gli studiosi utilizzano questo termine perché è poi il termine che poi è andato a finire di moda, insomma. Però questo succede, è successo tantissime volte e succederà ancora. Però volevo fare questa precisazione perché magari non tutti sanno questa cosa, e anche sti cazzi a volte. Noi finiamo tra i protestanti, quindi insomma, in buona sostanza, allora, sono quelli che si oppongono. Ecco, quello che ci siamo detti noi durante la prediretta, poi andiamo a parlare un po' di giochi. Questa cosa del fatto che c'è stato un momento in cui, a parte qualche caposaldo particolare, appunto, vedi XCOM, sembrava che il gioco a turni o il gioco tattico a turni a un certo punto stesse quasi per scomparire, fino a non so quale evento, alla fine comunque oggi si sta ripropagando in una maniera incredibile, forse anche per ragioni di sviluppo, perché magari comunque concepire e sviluppare una meccanica basata sui turni forse è dopo che l'hai concepita bene, chiaramente, quindi ci vuole comunque un lavoro di concetto abbastanza evoluto, e comunque forse magari anche più semplice, no, da sviluppare rispetto a meccaniche più frenetiche basate sulla sincronia e comunque dove ci vuole anche una certa tecnica di sviluppo, insomma. Ecco, avete notato anche voi questa cosa, che c'è un nuovo ritorno di fiamma verso questo tipo di genere, e secondo voi perché? Partiamo da Marcello. Sì, sì, assolutamente. Poi secondo me se le grandi produzioni scelgono il combattimento, la meccanica a turni, magari riescono ad avvicinare nuovi appassionati, e quindi sempre più software house magari scelgono quella strada. Quindi se però devo darti, non lo so, una motivazione, un'idea non me la so fatta, Simo, ti dico la verità. Anche chi, non so. Anche chi se ne frega, no? Uno dice, nel senso, l'importante sì, è che sì, c'è stato, giustamente. Leo? Ma secondo me stanno tornando più che altro perché sono stati furbi, perché negli ultimi anni hanno cominciato a spingere parecchio su quelli che abbiamo citato prima, specialmente ne ha citati un paio... Marcello, che sono un po' gli ibridi, no? Che accontentano un po' tutti, mm-hmm. E specialmente quelli di carte, che vengono bene, sono facili, sono fruibili, e quelli chiaramente generano vendite, perché sono cose che riescono comunque a masticare anche persone che magari non si sono may avvicinate al genere, tipo Slay the Spire, ne avevate detti anche un altro paio voi, e anche gli stessi giochi di carte e basta, che comunque sono giochi a turni. Se hanno il giusto prodotto dietro, quindi il giusto lore dietro che interessa la gente, tipo quello di Warcraft o quello di The Witcher, hanno il loro pubblico. Quindi io penso più che per prendersi la fetta grossa delle persone, quindi anche quelli che non sono interessati, bisogna fare o giochi ibridi o di carte, e magari che abbiano un lore che interessa il grande pubblico, come magari, che ne so, uno Star Wars o altre cose del genere. Beh, infatti io penso che prodotti come Thronebreakers, ad esempio, è un modo di riutilizzare la licenza a tutto campo, no? Cioè, nel senso, comunque magari The Witcher c'ho quel grossissimo parte di pubblico, però poi alla fine magari c'è un'altra parte che è rimasta esclusa e boom, io lo butti là il gioco. Quelli se lo comprano perché è un modo di valorizzare anche la stessa licenza, cioè la sfrutti fino a che è possibile all'interno anche dei contesti che sono apparentemente diversi dal gioco originale, no? Dal gioco principale. E questo ci sta anche se io poi non noto, e qui vado a Marcello, il fatto che comunque oltre al gioco di carte duro e puro, che comunque è un gioco a turni, poi ovviamente per ragioni ovvie, insomma oggettive, ho visto che, come diceva anche Leo, le ibridazioni sono quelle che rendono alla fine più affascinante proprio il genere, perché comunque vedi giochi che hanno una schermata da combattimento a turni ma che comunque si basa su un deck di carte poi alla fine, giusto? Sì, giusto. Io ho l'incubo che, per esempio, per, non lo so, un ipotetico XCOM 3, mi metti le skill dei soldati con le carte. No, no, magari, vabbè, c'è. Magari mi uccidi il genere. No, io penso che queste sperimentazioni siano più da sottolivello, no? Da livello underground. Sì, cioè, sì, comunque, è vero. Alla fine, comunque, secondo me una grossa produzione... può innovare comunque il genere, però non va mai a stravolgere, perché comunque sa che comunque ha quel pubblico. Ecco, per esempio, qual è quello spin-off di XCOM che è uscito recentemente? Chimera Squad. Bravo, esatto. Che io devo dire la verità, a parte alcune difficoltà che ho trovato, insomma, è un gioco pure piccolo, tutto sommato. Anche lì, riutilizzo della licenza, simpatico, non male, bello. Però anche non... le meccaniche nuove, carine, quelle della... Secondo me è stato sperimentale, lo definirei. L'intrusione lì, come si chiama, quella fase iniziale, esatto, adesso esatto, non mi ricordo. Esatto. Sì, quella è bellissima, è vero, molto bella. È figa, è figa. Infatti devo dire che secondo me poi questi giochi vengono utilizzati anche per per testare, no? Cioè, nel senso, il, così come c'erano alcune meccaniche in Fallout 4 che sapevamo che stavano lì solo perché prima o poi avrebbero dovuto tirare fuori il gioco online, insomma. Che tra l'altro, vabbè, chi è che tu ne hai parlato bene una volta, Leo? Sbaglio? Di quale? Di Fallout 76? No, non è no, no, no, non bene. Sicuramente non ho detto buone cose di Fallout 76. Okay, però se me l'avete mai chiesto di là su Telegram, sicuramente avrò risposto che è un gioco che con gli amici merita, come divertente, tutto. Perché okay, con gli amici si gioca anche con quattro sassi e, certo, esatto, e due gessi. Quindi. Quello che facevo io quando ero piccolo, giocavo con quattro sassi, esatto, e due gessi. Esatto. Quindi funziona tranquillamente, però vabbè, è un gioco che ha i suoi problemi, quello insomma ormai lo sappiamo tutti quanti, per cui niente di nuovo. Marcello, ma perché ti piace il genere in generale, il genere compreso le vaste sottocategorie? Così, questa è una domanda secca, boom, così mi è venuto in mente. Ma non lo so, forse perché da piccolo ho sempre giocato questo genere qui, strategici, mi pescavo dei giochi, non so se lo conoscete, Chaos Overlord, era un gioco strategico, non conosce nessuno, però... aspetta, io me lo vado a cercare, perché mo mi è incuriosito. Sì, vai, vai, era una cosa simpatica su una mappa. Si poteva giocare pure in locale con più giocatori, era simpatico. Non lo so, forse più appunto il mio povero background da videogiocatore è stato sempre su quello, quindi sono rimasto legato a questi a questo genere, diciamo. Genere vecchiotto, vedo. Sì, sì, sì, sì, sì, questi erano vecchiotti, sì. Madonna, le introduzioni a un quarto di schermo full motion video a 12 fotogrammi al secondo, ragazzi. Questa è la storia proprio, cioè roba mia, della mia generazione. Oggi 12 fps potrebbero uccidere un gamer moderno, anche solo vederli per pochi secondi. Esatto, ti farebbero una pippa che non finisce mai. Ma già quando ho capito che scendono dai 60 ai 59 frame, wow, ingiocabile. Deve fare vedere io i giochi ingiocabili. Però si introduce un po'. Ah sì, ho capito. Non lo conosco, devo dire, sto gioco. Carino. Ti ho detto questo, però ovviamente gli XCOM, diciamo l'originale XCOM, tutti gli XCOM fino ad arrivare a quella cagata Apocalypse, quella là in tempo reale che mettevi pausa, non so se l'avete giocato. Comunque ho sempre giocato questo genere di giochi, quindi... Ma è sempre un XCOM? Come? Questo Apocalypse è sempre un XCOM oppure... Sì, è sempre un XCOM, però non più prodotto da Gallop. È una cosa... Cioè io lo giocavo, perché poi comunque ero piccolo, quindi magari quando sei piccolo non ti fai nemmeno troppi problemi, giochi e basta. Però non ha venduto bene. Era in tempo reale con la possibilità poi di mettere in pausa, diciamo. La Microbrose. Mica cazzi. Fammi vedere com'è sto gioco. Ma io mi ricordo... So se ci avete mai giocato al gioco quello lì... vabbè, questo è più moderno. Secondo me era fatto con l'engine, cioè col framework di sviluppo di Mass Effect. Come si chiamava? Sempre quell'XCOM, però che era in terza persona lì. Che tu. Ho capito. Ma è sempre ambientato nella cosa di XCOM o in un altro periodo storico? È sempre un XCOM, storico, però ambientato tipo negli anni 50. The Bureau. Bellissimo. Bravo, The Bureau. Mi è piaciuto tantissimo. Bravo, sì. Non l'ho mai giocato. Bello, Leo. Oh, a me quello stile mi piace. Era quello che poi dicevamo prima, no? Di quell'altro gioco di cui parlavamo prima della sì, puntata, del che c'ha quello stile, dice, anni sì, 30, 20, sì. Mi piace. C'è niente da fare. No, c'ha il suo fascino. Devo dire che diciamo che anche narrativamente non era male. Poi, tra l'altro, tutto doppiato in italiano, anche decentemente. Insomma, alla fine era una bella produzione. Si vedeva che dietro c'era una bella produzione. Era un po' strano il gioco, poi, alla fine, devo dire la verità, perché. Non era così rifinito come gioco proprio, cioè non era raffinato, c'era un sacco di bug, io sono rimasto incastrato diverse volte in diversi buchi, insomma, quindi alla fine comunque succedeva, però devo dire che era figo, era divertente, il gioco non era manco male, era una sorta di spin-off, una deviazione dalla storia principale, però se lo consiglio a giocare, no, oggi forse, io ci ho giocato tipo l'altro anno, me lo sono rigiocato così per curiosità, e oggi secondo me non è riproponibile, a meno che non fai una remastered come è stato fatto per Mass Effect, perché comunque oggi diventa proprio difficile giocarlo, così come oggi è praticamente improponibile pensare di giocare i primi XCOM. Cioè proprio penso che se lo apri te si disturba il cervello, cioè nel senso proprio ingiocabili, inguardabili e via dicendo, eppure allora erano il top, insomma, cioè veramente, soprattutto hanno dato veramente vita a un genere in qualche maniera. Bene. Quel periodo spaccava, secondo me. Il 62 c'ha il suo pubblico, con la guerra fredda. Eh sì, vabbè, perché era proprio così, un po' quel servizi segreti americani, un po' rozzetti, un po'. Insomma, era figo, dai. Poi tutti, cioè, incredibile, e questi andavano a fare i combattimenti con gilet a cravatta, cioè, ragazzi. Eppure più o meno, insomma, penso che oggi non sarebbe proprio possibile una cosa del genere, insomma, però facevano ride, capito, col cappello. L'americano leva del cappello, dicevano dalla parte, insomma. Come no. Allora, vabbè, diciamo, scusate, ma c'ho tipo un problema che niente. Spero che non sia niente di grave. Comunque, allora, i giochi usciti recentemente che voi consigliate di questo tipo di genere qua, che avete giocato, chiaramente qui è avvantaggiato Marcello. Usciti? Diciamo, parli di giochi? Sì, sempre nell'ambito dei giochi a turni, diciamo, che tu stai giocando o che hai giocato o che tu comunque suggerisci rispetto a quelli che sono usciti recentemente o che stanno anche per uscire, volendo, dai. Allora, uno che suggerisco è The Hand of Merlin. Non so se l'avete sentito. Ok, il nome è... Ce l'ho in wishlist, però deve ancora uscire, vero? No, non è uscito ancora. Un attimo solo. No, è uscito, è uscito. Io l'ho messo in wishlist perché l'ho visto. Però in molto recentemente, insomma. Sì, allora. In Early Access, però. Attualmente ecco in Early Access. Perché non l'ho preso allora. Questo qua è carino, perché c'ha... È sempre un gioco ambientato nel mondo di Re Artù, praticamente, la leggenda di Re Artù, però ci sono pure dei mostri, quindi è tutto un mix strano, il setting è simpatico, e è un roguelite. Quindi questo qua, diciamo, richiama Slay the Spire. Non ci sono carte, però non ci sono carte, il combattimento è tattico. Quindi il classico spostamento sulla mappa con i vari snodi, con l'evento, il punto di ristoro, questa cosa qui classica, e poi il combattimento tattico sulla mappa. È simpatico, veramente simpatico, questo qua lo consiglio. Che poi non ho capito se era tipo quelli, cioè nel mondo di Merlino e lì il, sì. Come si chiama lì, Uber Pendragon, come si chiama il padre di Re Artù, insomma, non mi ricordo, che però sono tutti un po' malvagi, no, mi sbaglio, è quello? Sì. Era Uther, comunque. Sì, non mi veniva. Erano io da fan di Dark Age of Camelot quando giocavamo, vero, al vecchio Babbo, era ambientato, avevamo imparato tutto, ormai sapevamo, il ciclo arturiano era pane quotidiano. E ce ne sono tanti, sulla leggenda di Re Artù ultimamente, sono un sacco di giochi. E poi Stone Shard, ve l'ho nominato prima, a me Stone Shard piace tantissimo, l'ho tenuto, diciamo, tra virgolette, un po' parcheggiato, perché aspetto la build finale, praticamente, però bello, a me mi piace il pixel art, mi piace tantissimo, quindi quello là lo consiglio. E non lo so, recenti. Anche le prossime uscite che tu stai seguendo, che prossime dici questa uscite, appena esce, uscite è lunghissima la lista, quindi qualcuno faccio meno fatica. The Ironhot, non so se l'avete sentito, The Ironhot. No, però adesso io segno tutto. Ok, Urban Strife. Urban Strife è questo gioco praticamente sullo stile, ricorda un po' Jagged Alliance 2. Ah, Come no? Però poi c'è tutta la componente RPG da RPG puro, bellissimo, ci sono i zombie, ci sono fazioni, diverse fazioni, bellissimo, molto bello, in sviluppo questo qui. Ce n'è già uno uscito del analogo a questo, che si chiama, mi pare, Atom. Sì, Atom, c'è anche, ce ne sono due, c'è stato il primo e il secondo, Atom e Atom Trudograd, che è il secondo. Ma tu dici Atom RPG? Quello russo? Esatto, che tra l'altro deve uscire in italiano, quello lo stanno traducendo i ragazzi con cui stiamo traducendo Pathfinder. Ci sto giocando in italiano, quindi... Però l'hanno già finito, sì, sono stati veloci. Anche il doppiaggio, che poi vuoi dire, vabbè, il doppiaggio, c'è tutta l'introduzione parlata che... Potevano anche non farlo, detto di la verità, insomma, perché è un po' deturpante. È crudo, insomma. È crudo. E poi ho capito, ho letto così che, insomma, devi anche non farlo. Però, mi propongo la prossima volta, allora, quando no, ma infatti, piace, ma chiamateci a noi, che siamo bravissimi, diciamo i microfoni, seri, insomma, quindi possiamo fare tranquillamente noi. Io te lo guardo, te lo faccio in romano, però va bene uguale, cioè piuttosto di quello che hanno fatto. Però i testi sono tutti doppiati, tra l'altro il gioco è fighissimo, molto, molto... Fallout, cioè nel senso Fallout vecchio stampo, è un po' grezzino, diciamo un po' grezzino anche quello, però inevitabilmente, però ce lo sta. Invece questo qua, Urban Strife, lo voglio, cioè assolutamente, me lo metto in wishlist. Bello, bellissimo, quello è bellissimo. E okay. L'ultimo, vi dico l'ultimo, poi mi fermo. Odd Gods, ve lo scrivo pure un attimo così. Odd con quante D? 2D. Però è in 3D, giusto? Sì. Ma era una battuta stupida. Non la storia è originale, perché questi viaggiano nel tempo, quindi sia come storia, poi il gameplay praticamente... ogni mossa che fai ha un, diciamo, una durata in secondi, quindi tra virgolette non è proprio un combattimento a turni, ma non lo so, se uno ti spara tu magari non hai il tempo di andare in copertura e vieni colpito, cose del genere. Carino veramente. Però diciamo che in sviluppo da un po' di tempo, abbiamo intervistato pure gli sviluppatori un po' di tempo fa sul blog. È bello, poi se andate a vedere il sito è fatto, sembra una videocassetta anni 90, bellissimo. Sì, sto scorrendo adesso e sembra veramente carino. Graficamente sì. Ricorda un po' come qualità grafica Pillars, insomma. Sì, sì. Personaggi fatti bene, isometrico. Io su YouTube non riesco a trovarlo. Su YouTube non lo trovo. Strano. Vabbè, poi me lo cerco comunque. Ci serve la chicca, bisogna sentire sti sviluppatori. Ma noi gli scriveremo e provarlo. Senti, caro, io ho i miei amici di fiducia che mi provano i giochi e poi fanno i video, io me li guardo. Vabbè, questi belli, me li sono segnati questi, perché io poi veramente io vengo sul canale tuo, comincio a guardare i video e poi mi segno, vado su Steam, metto in... a parte qualche volta che giustamente metti il link diretto ai siti, perché giustamente forse non sono su Steam per qualche ragione. So se... Sì, a volte capita, magari anche sull'altro sito itch.io, quell'altro sito indie, diciamo. Diciamo che il mio forte è proprio quello. Ho abbastanza una panoramica generale dei giochi in uscita. Sì, è proprio un servizio. Veramente un servizio quello che fai, incredibile. Devo dire, ti faccio i complimenti perché. Ma poi io faccio i complimenti non perché sei qua, ma sei qua proprio perché ti faccio i complimenti. Nel senso, non è che uno manda le mail a casaccio alla gente, insomma, non, lo voglio precisare sta cosa perché. E mi faceva veramente piacere, cioè nel senso, su un tema come questo veramente non è soltanto il fatto di fare il gioco, ma fare proprio il servizio, fare un lavoro costante dove tu sai che comunque ogni tanto esce fuori il video di Marcello dove vai a vedere l'elenco e comunque a prima acchito intanto ti guardi le cose che sei sicuro che ti interesseranno e poi te le annoti, soprattutto le prossime uscite, perché veramente sta uscendo una marea di roba, comunque sarà difficile riuscire a ricordarsene, insomma. Ok, e invece Leo, tu che c'hai qualche gioco che secondo te più o meno che già hai adocchiato, che ti interessano, che magari hai giocato recentemente e che proprio ti è piaciuto e vorresti consigliarlo? Certo, magari non è proprio il tuo genere, anche sì sì, perché comunque giochi pure, cioè non fai distinzione, diciamo. Eh beh, io però ad occhio da Marcello, per cui casco male esatto. Da questo punto di vista. Allora, non vi dico quelli che sto vedendo, perché comunque li seguo da lui principalmente. Io devo dire che lui è il mio padre da questo esatto. punto di vista. Quando non so quello che gioca, che dovrò giocare o portare nel canale, o che comunque poi spesso me lo chiedono anche nei commenti. Però diciamo che l'appuntamento del mercoledì di solito sul suo canale me lo guardo, perché me li vedo i giochi da tenere d'occhio, e poi se magari qualcuno commenta. Però quello che vi posso dire sono i giochi che secondo me a turni che dovreste avere in libreria, che secondo me sono 5 e non costano manco tanto e coprono un po' tutte quante le tipologie dei vari RPG o giochi a turni in generale, senza per forza dover essere degli RPG. Il primo in assoluto è Darkest Dungeon, che vabbè è okay. quello, regà, è un pilastro, non c'è niente da fare. Sì, tra l'altro sì. attesissimo il 2, hanno tirato sì. fuori il trailer recentemente, non vedo l'ora di giocarlo. Ovviamente gli XCOM, quelli nuovi, diciamo quando è passato al 3D, quindi XCOM 2 eccetera, quando uscirà poi il 3, che è il 3 quello che deve ancora uscire, sì, giusto. Che ah, perché stanno sì. a fare un altro XCOM? Sì. Non lo sapevo. No, beh, col successo del 2 sì, lo fanno il 3. Sì, non c'è ancora niente di ufficiale, però sembra che qualcosa si sta iniziando a muovere, diciamo. Quando ci sono certe battaglie del 2 sì. che erano veramente il casino. Sarà bello il 3 secondo me. Col Madonna. Soldo che hanno fatto col 2 e con quest'ultimo spin-off che hanno fatto, ci hanno tutti i soldi necessari, perché tanto alla fine dobbiamo sì, valutarlo secondo così. Me, secondo me Chimera ha venduto, proprio perché comunque era un gioco anche 10 euro tra virgolette economico e tra virgolette abbordabile, comunque non è un gioco proprio super hardcore, a meno che non lo giochi chiaramente alle difficoltà improponibili. Ma devo dire che io non sapevo di questa cosa, ma in generale ci sono delle battaglie su XCOM 2, ragazzi, che a volte mi si incastravano i neuroni a me, cioè sono molto che cazzo. Se giochi ad Iron Man specialmente sono sudatissime alcune, perché no, sai no, che se fai una minchiata non ci provo minimamente, non ci provo minimamente. manco ci penso proprio. E poi Divinity ovviamente. Ok, Divinity per forza. Divinity neanche vi dico l'uno o il 2, cioè fate tutti come vi pare, fate a due, caso, sì. prendete un numero tra 1 e 2, va bene qualsiasi dei due giochi, perché sono fantastici entrambi. E poi un altro, un quarto, che è piccolino, adesso ormai si trova anche pure veramente su 1 euro, 2 euro, che è Faster Than Light, che è appunto sì. un roguelite futuristico dove se perdi devi ricominciare, okay, che sì. secondo me è fantastico. Quello è difficilotto, quello è sì, sì. l'ho sì. finito una volta sola a normal, facendo una fatica infinita, difficilissimo. Quello forse è anche un po' troppo smisurato, cioè, nel senso è veramente un po' fuori scala da un certo punto di vista, però sì, assolutamente. Bel suggerimento. Io in realtà veramente non, a parte appunto andare a scoprire ogni tanto questi giochetti tipo Hard West, che comunque ve lo consiglio, perché è un gioco piccolo in tutti i sensi, perché comunque guarda, io l'ho comprato e costa 1,99. Il PS1,99 è pure c'è pure ciccia, insomma, tutto sommato, perché non dura tantissimo, ma comunque di livelli ce ne sono, cioè, e c'è, mi pare a 2,99 c'è pure il DLC. O pare sono un paio dei DLC. Tra l'altro c'è pure sì. una narrazione dietro, cioè nel senso c'è una storia, non è che. E poi vabbè, ci sono questi elementi, insomma, lovecraftiani, che a volte hanno pure un po' rotto il cazzo dentro, sempre in francese, perché voi sapete come la penso. Ci sono delle cose che amo alla follia, però poi alla fine, comunque, quando te le ripropongono dentro al panino con la marmellata, a volte basta, devo dire, insomma. Però comunque questa è una mia tesi. E poi vabbè, sì, Phantom Doctrine. E poi ragazzi, la saga dei Banner Saga, chiaramente secondo me va giocata non tanto per le meccaniche del gioco, che sono carine, sono interessanti, quanto per la storia, che a me mi ha appassionato comunque, veramente mi ha appassionato tanto, e le animazioni, perché comunque è un gioco che è veramente molto curato dal punto di vista proprio visivo, i disegni, le animazioni, fa molto bluff, insomma, diciamo così, quindi quel disegno un po' disneyano, un po' Dragon Slayer, se vi ricordate, insomma, come tipo di animazioni, però è questa storia fantasy con i giganti, insomma, molto, molto Norren style, insomma, diciamo così. È figo, veramente. Tutti e tre vanno assolutamente giocati, e tra l'altro, ovviamente, essendo una saga, so in continui, dice, nel senso, comunque quello che succede sull'uno ovviamente influenza il secondo. Posso dire, non c'è bisogno di giocarli tutti e tre, senza, puoi giocare anche soltanto a terzo, però secondo me ti perdi gran parte della, cioè, quelli sono proprio progettati per essere giocati tutti quanti insieme. E c'è un altro gioco fatto proprio con il framework di sviluppo di Banner Saga, quindi anche quello con animazioni, cioè molto simile, anche però la storia è sì fantasy ma è totalmente diversa. Si basa sulla storia di alcuni immortali, adesso non mi ricordo come si chiama, mannaggia la miseria, perché Ash non... of Gods. Bravo, bravo, vedi che sei un fenomeno. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E pure quello, diciamo, c'è solo il primo. Penso che scontinui, spero, perché sennò vaffanculo, nel senso. Era bello, non l'ho giocato. A me è piaciuto, devo dire. Ma a me piace proprio questo tipo di giochi in generale, soprattutto se ti raccontano una storia. Devo dire la verità, che è arrivato, insomma, al punto in cui sono arrivato io, un videogame comunque mi deve raccontare una storia, indipendentemente dalla meccanica. Se deve essere solo gioco nudo e crudo, io, ma questo parlo per me chiaramente, che forse non c'ho più tempo, non c'ho più pazienza, diciamo così. E infatti quando noi abbiamo fondato Ludico Forum dal vecchio Videoludica, che era il vecchio podcast precedente, in realtà ci siamo indirizzati verso tutto quello che è il mondo anche collaterale al videogame, cioè quindi anche su quello che riguarda le produzioni, anche tutta la parte del sound design, della parte più cinematografica. Parliamo, insomma, dei vari aspetti, no? Che è quello che ci interessa anche dell'industria in particolare. Quindi ecco, tutti questi giochi che alla fine comunque ti raccontano una storia, a me piacciono tantissimo. Anche comunque la storia, se è appassionante, ti dà il motivo. Poi c'è anche chi dice a me, però quel tipo di storia mi fa schifo, e vabbè, non te posso fare niente. Nel senso, come sempre, rientriamo nell'ordine del gusto. Bene, bene, bene, bene. Carino, carino, bene, bene. Sì, non faremo, come ho detto, insomma, liste particolari, però veramente io vi suggerisco di andare sul gruppo di Marcello, sì, sul gruppo, sul canale YouTube di Marcello, quindi ve lo ridico all'italiana così lo capite, Turn Lover, no, The Turn Based Lover. E ve lo scrivo chiaramente sulle note dell'episodio. E così potete andare ovviamente sul suo canale, attivare la campanella, iscrivervi, attivare la campanella e seguire praticamente tutti i suoi video, in particolare se vi piace il genere, perché come abbiamo detto 50.000 volte, lui fa un lavoro veramente di ricerca e di catalogazione. E poi ovviamente potete anche andare a seguire il blog, che oggi nel 2021 può sembrare strano, però in realtà, siccome che abbiamo dematerializzato un po' tutto e non ci abbiamo più gli elenchi e affidiamo, insomma, la nostra informazione a YouTube, invece un blog è, per quanto paradossalmente possa sembrare, in realtà è fondamentale, perché tiene traccia delle cose di cui si parlano. Quindi bravo, bravo, bravo, bravo che ancora resisti sulla vecchia breccia, come si dice una volta, insomma. Magari sul blog si capisce pure meglio quello che dico nel video. Ma guarda, i video si capiscono bene, devo dire la verità. Io che non so uno particolarmente, insomma, avvezzo, però insomma i video si capiscono bene. Poi comunque sei anche brillante, sei dinamico nel modo in cui parli, racconti le cose, poi sei italiano e c'hai l'accento da italiano. Possiamo fare questa questione, però era veramente figo. Bravo, bravo. Niente. Grazie. Ragazzi, abbiamo fatto una piccola spolverata veramente, perché poi invece probabilmente, se loro sono d'accordo entrambi, mi piacerebbe una volta prendere proprio ad esempio magari un sottogenere specifico, oppure magari un gioco particolare, una serie di giochi particolari, e cercare di spiegare perché certe meccaniche comunque possono essere interessanti e quanto possono essere anche sviluppate. E quindi insomma c'è materiale di cui parlare, magari nelle prossime settimane, prima di arrivare all'estate, insomma, magari ci riorganizziamo. E se vi va, ragazzi, perché non è che sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Tanto lo sai, sì, ma io sono sempre disponibile. Ma ce l'abbiamo invece il tempo di fare un honorable mention, così, un gioco extra in più a testa? Ma in realtà abbiamo il tempo di fare quello che ci pare. Cioè, sono, guarda, adesso te lo dico, abbiamo 25 minuti. perché io ci pensavo prima. E ce n'è uno che passa molto under, proprio come dice il nome del gioco, per l'appunto, in questo caso dei radar. Il gioco si chiama Under Rail, non so se l'avete mai sentito. Sì, è un gioco a turni post-apocalittico che è tutto quanto sottoterra. Sì, è fighissimo. Lo stavo super a crudo. Ieri, lo stavo a vedere, sì. Super crudo. Anche quello è uno che, diciamo, no, non tanto quanto quelli che ho menzionato prima, però diciamo in seconda battuta è uno che magari in libreria ci deve stare, insomma, per fare almeno un salto nel passato dei vecchi giochi, dei vecchi Fallout, però con un tocco moderno che te lo fa digerire più facilmente. Magic, bello, sì. Magic NG in chat ci dice: penso che XCOM 2 sia uno dei giochi a turni di maggiore successo e non vede l'ora di vedere il 3. Carlo Sant'Agostino, nostro collega podcaster ovviamente, ricordiamo che Carlo Sant'Agostino scriveva su The Games Machine quando io ero ragazzino, quindi per me era una sorta di idoli, insomma, e oggi facciamo i podcast insieme, infatti è divertente. Bellissimo. Dice che per lui tutti questi giochi di cui stiamo parlando, quindi parlavamo quando parlavamo dei primi XCOM, sono giochi troppo nuovi. vabbè, ci sta, no? Sto scorrendo un po' la chat per vedere che... Vabbè, c'è Gianluca Sansò che dice: quale gioco? Ripetete il gioco, eh? Lui lavora in ristorante, ci sta ascoltando mentre che cucina. Domani devi sentire il podcast, vai tranquillo che non c'è problema, tanto sai che non perdi assolutamente niente. E continuo a scorrere un attimo così la chat al volo, ma non vedo insomma niente, stanno a parlare fra di loro e ridono, quindi va bene così, insomma. Bene, e va bene. In realtà volevo sapere un po' da voi, appunto. Ah no, però ne abbiamo parlato di Westland 3. Scusate, sono un po' rintronato stasera perché leggere la chat e parlare con voi è un po' disorientante. E tu ce l'hai una menzione d'onore, Marcello, giusto una cosa così? Ma tu, per esempio, se tu dovessi pensare negli ultimi anni in generale al gioco proprio che dici questo mi è proprio rimasto nel cuore, o che proprio mi ha divertito tantissimo a giocarci, o mi ha divertito tanto il gioco in quanto divertente, insomma, vedi qualcosa che ti viene in mente? Battle Brothers, non so se voi lo conoscete, ci giocate. Assolutamente, lo vado a cercare immediatamente. Fantastico. No, manca pure a me, vediamo un po'. Ah no, sì, come no, ok. L'avevo Battle visto Brothers. Su Steam. Sì, Leo, favoloso. Ma a me, molto... sai, non mi aveva convinto per i pupazzi tagliati a mezzo busto. L'avevo guardato un pochino e ho detto: ma che ci fanno sti pupazzi fatti così? E ho detto no, invece merita. Ah, è favoloso. Praticamente parti in questo mondo e poi mano a mano assoldi mercenari, li fai salire di livello, vai completi quest, sai, molto molto classico in questo, però bellissimo. Poi difficile da morire, uno di quei giochi che ti fa bestemmiare, però bello. Mi ricordo che c'era anche un gioco sui vichinghi che era fatto tipo a statuette, no? War Tile. Aspetta che me lo vado a cercare perché pure quello mi interessava. Con le miniature. Bravo, tipo con le miniature, bravo. Sì, War Tile. Però questi qua sono entrambi con una singola miniatura, vale come un'unità, giusto? Sì, non è tipo Might sì. and Magic che un omino può valere magari, che ne no, so, no, no, mille no, unità no. una sopra l'altro. Okay. No, ognuno nominabili, quindi sai, ti affezioni pure. Bello, bellissimo. Io poi ho smesso stati... di nominarli, ho preso troppi schiaffi su Darkest Dungeon, da lì ho detto no, li chiamo tipo gruppo 1, gruppo 2 e basta. Basic, devono essere sostituibili. Questo lo dovete provare, è bello. Bellissimo. Gianluca, sei iscritto al tuo canale, dice, quindi poi controlla, Marcia, che se non è vero gli famo para. Va bene, mi raccomando, quindi ricordatevi sia il canale di Leo, quindi Halloween, insomma è inutile che vi scrivo come lo sapete, insomma, tanto lo trovate nelle note dell'episodio, e Turn Based Lovers, andate, scrivete, campanella, seguite, fate gli stronzi, mettete like, condividete, ma soprattutto guardatevi i video e commentate, perché Marcello vi risponde anche in italiano, quindi non vi vergognate, scrivete in italiano, che io tanto lo faccio io, quindi non c'è problema, insomma, da questo punto di vista. Va bene ragazzi, dai, allora ci riorganizziamo. Mi è piaciuta questa prima infarinata, così tanto per capire. Una volta vorrei proprio parlare di giochi, insomma. Quindi ci organizziamo, diciamo, la pensiamo un po' la puntata, perché vorrei proprio parlare di giochi, di meccaniche, del perché quella meccanica mi è piaciuta più di quell'altra e cose un po' più cicce, insomma, diciamo che insomma, oggi abbiamo parlato di un genere talmente vasto che era un po' complicato riuscire a dargli una definizione più precisa. Quindi io ringrazio prima di tutto Marcello, chiaramente, perché ci grazie mille. Ospite per la prima volta e insomma abbiamo detto che ritorniamo. E vuoi dire qualcosa? Invita la gente a seguire il blog, qualsiasi cosa, puoi salutare qualche parente. Che questo è lo spazio tuo, tu fai come te pare, cioè, nel senso che casa mia è casa di tutti, quindi. Ah, ok, no, grazie, ti ringrazio, ringrazio Leo e niente, seguite il canale, raggiungete anche il blog, perché il blog è, per assurdo è più dettagliato rispetto al canale YouTube. E niente, grazie mille per avermi invitato, io sono un po' emozionato di stare al vostro cospetto di gamer professionisti come voi. Allora, io guarda, io mi reputo solo un appassionato, quindi grazie mille, grazie. Vai Leo. Io come al solito ringrazio te per l'invito, Simo, sono pure contento, stasera è stata una bella chiacchierata con Marci, e poi vabbè avevamo già chiacchierato un po' in live così, però sì, non mi era mai capitato di scambiare strumenti per conoscerci, ragazzi, sì, cioè, sì, no, senso... infatti è stata una piacevole, grazie, chiacchierata, e ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo stasera e che poi seguiranno anche il podcast, quindi grazie a tutti. Il canale mio chiaramente lo conoscete, anche quello di Marci adesso, per cui se volete seguirci ci trovate lì. Quindi, scusa Marci, ma com'è la URL del turnbaselovers.com? Sì, sì, ok, quindi... No, perché c'è stata un'altra cosa che mi rindirizzava una cosa stranissima, tipo aztec.com, aspetta, no, vabbè, poi mi andiamo a vedere. Ok, perfetto, l'ho trovato, adesso ve lo linko sia su Dirette Runtime che sul gruppo di Videoludica, così potete tranquillamente andare a trovare. Scusa Leo, ho tagliato proprio la chiusura. No, tanto avevo finito. Io sono veramente una bestia. A meno che non ci facevi chiudere con la chiusura che usiamo classica su YouTube, sia io che Marcello. Tipo iscrivetevi. Così a buffo, ma no, troppo... Va bene, va bene. Ragazzi, grazie di tutto. Vi ricordo domani sera alle 23:30 Runtime by Night, per chi ascolta ovviamente la live, chi insomma vuole, quindi faremo le solite chiacchierate notturne e domani c'è tutto il palinsesto di Runtime normale, ma soprattutto domenica c'è il meglio della settimana di Runtime, tutti i podcast che sono usciti, le live che sono state fatte, e come al solito vi diamo sempre quasi almeno una live al giorno, ragazzi, quindi insomma andate su www.runtimeradio.it e cliccate sul pulsante anch'io Runtime, anch'io, è la nostra iniziativa, dove potete seguire il nostro Patreon e ovviamente contribuire se volete, se no fate una donazione PayPal o una tantum se volete, anche sapete che insomma quello che facciamo è tutto completamente gratis, ma comunque l'infrastruttura costa, soprattutto da quando siamo diventati anche web radio, perché a noi non ci bastava insomma fa quello che facevamo, e se no sapete insomma che stanno già girando i link per comprare tazze, bicchieri, cotillon, insomma oramai un sacco di gadget, e lo shop apparirà anche nel sito, però ci vuole un po' di tempo perché sapete che noi facciamo le cose sempre con la nostra biblicità. Ringrazio ancora una volta Marcello e ringrazio ancora una volta Leonardo e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per averci seguito, per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.